Polish Bit di Giulia Crivelli. Called out for copying, Chanel does the right thing. Questo è il titolo di un articolo di Vanessa Friedman, fashion critic del New York Times, pubblicato pochi giorni fa dal quotidiano americano. La traduzione è: scoperta a copiare, Chanel fa la cosa giusta. Vediamo prima di tutto il phrasal verb to call out, che in questo caso significa letteralmente denunciare, accusare. Un altro esempio dell'uso del verbo è she called them out on their lies. Lei denunciò le loro bugie. Nel caso di Chanel, la denuncia riguarda l'aver copiato un motivo particolare di maglieria. Secondo la giornalista del New York Times, accusato il colpo, Chanel ha fatto la cosa giusta, ammettendo di aver copiato. In questo caso ovviamente la traduzione è letterale, ma do the right thing è un'espressione molto usata, quasi una frase fatta negli Stati Uniti. Spike Lee la scelse come titolo di uno dei suoi film più belli, Do the Right Thing, appunto, uscito nel 1989. Film duramente criticato perché parte della tesi è che la violenza, come reazione a un'altra violenza, può essere appunto, in alcuni casi, la cosa giusta. L'uso più beffardo dell'espressione è attribuito a Winston Churchill. You can always count on Americans to do the right thing after they've tried everything else. Puoi sempre contare sul fatto che gli americani facciano la cosa giusta dopo che hanno provato qualsiasi altra strada. Più saggio e serio Martin Luther King, che una volta disse: that old law about an eye for an eye leaves everybody blind. The time is always right to do the right thing. Quell'antica legge, occhio per occhio, lascia tutti ciechi. È sempre il momento giusto per fare la cosa giusta. Curioso invece rileggere le parole di Tony Blair quando era premier britannico. Sometimes it is better to lose and do the right thing than to win and do the wrong thing. A volte è meglio perdere facendo la cosa giusta che vincere facendo quella sbagliata. Curioso, perché Blair ha di recente ammesso che la guerra in Iraq, definita all'epoca the right thing, la cosa giusta, fu un errore. E finiamo con le parole di Kareem Abdul-Jabbar, uno dei più grandi giocatori di pallacanestro di tutti i tempi. I try to do the right thing at the right time. They may be just little things, but usually they make the difference between winning and losing. Cerco di fare la cosa giusta al momento giusto. Può trattarsi di piccole cose, ma in genere fanno la differenza tra vincere e perdere.